Calcolate le ipotenuse di due triangoli rettangoli. Il primo con i cateti di 6 km e 8 km. Il secondo con i cateti di 3 km e 4 km.